Tanto tempo fa, in una galassia lontana, lontana. Episodio ottavo. È un periodo duro al forte. Gruppi di ribelli, colpendo da più basi, hanno ottenuto le loro prime vittorie contro il malvagio coprifuoco. Spie inviate per controllare la situazione sono riuscite a captare le prove segrete per costruire parti dell'arma decisiva dei ribelli, la diretta radiofonica. Un evento di tale potenza da poter distruggere un inter... Ma non si può tenere dritto sto foglio? Aspetta, me lo so perso. Tenuti d'occhio del Diego Bambu, la principessa Alexa e Suano sfrecciano verso il forte a bordo del fedele Iron Man, custodi delle prove rubate che possono salvare la scuola di musica e l'attesissima diretta. Hai collegato gli sdoppi? Ausiliaria collegata. Qui la regia mi sembra abbastanza a posto, non lo so. Siamo pronti. Te dici che siamo pronti? Eccolo. Oh, piano con sto soppalco che è di legno, si sfonda. L'hai portato i microfoni? Sì. Ah, e vabbè, il mixer? No. Ho capito, devi tornare a prendere il mixer. Sei forte, vai, vai tu, per favore, vai. Dai. Ah. Ok, la stiera funziona, prova, sa, ok. Adesso facciamo un'altra oretta e mezzo di rumore rosa. Taratura completata. Ma come taratura completata? Ma ci si spendono ore e ore, mo in 5 secondi. Dobbiamo mandare il rumore rosa. Taratura completata, è tardi. Perché dici che è tardi? Porca miseria, l'ora di buio. Mario, vieni Mario, bisogna chiudersi in casa, vieni Mario, bisogna chiudersi in casa, basta, chiudersi in casa, non c'è pericolo, non aver paura. Sto coprifuoco maledetto, e c'hai ragione, ci dobbiamo fare armi e bagagli e tornare a casa. Per domani per la diretta siamo pronti? Va bene? Allora dai, mi alzo, namo, venite con... No. Che vuol dire no? Dai vabbè, sì, è tardi. Non torno a casa. Ma che stai dicendo? È qui il mio posto. Io desidero restare sulla terra con lei. Noi resteremo qui. Voi? Cioè te e Alexa restate qui, non ho capito. Sì. È meglio così. Non preoccuparti. Non capisco. Non ti piace? Restiamo qui insieme, amore mio. Ma che state dicendo, amici? Ma io non capisco, ma... Dammi 1000 baci. Non fare così. Cioè, noi, la gatta, il papone... Non abbiamo bisogno di te. Io ho bisogno di voi. Ma perché? Risata. Starai bene. Io pensavo che noi eravamo... Oh, che ridere. Ma voi non potete fare questo. E devi prendere il tuo posto nel cerchio della vita. Come posso tornare? Amici, io... Perché? Vai, ora. Dai, Iron Man, andiamo, dai. Lasciami qui. Come farò Iron Man senza di te? Lui vive in te. Vieni, andiamo, Alexa, vi prego. Amici. Ricordo. No, non fate così. Sei. Amici. No, ti prego, non lasciarmi. Ricordo. Padre. E che cazzo ci ha messo sta, go? Iron Man, non lo fare, no! Svegliati. Che era? Calma. Era solo un sogno. Ti sei addormentato. Amici, siete ancora qui? Siete qui con me? Ho sognato che voi... Ed ora calma, ci sei siamo. A casa. Ora sei sano e salvo. E di nuovo nel 1955. Sì, vabbè. Ma che ore sono? Sono le 4:15. Cosa? Siamo in ritardo. C'è la prima diretta. Cosa? Le 4:15. Non gliela faremo mai. Siamo qui. Cazzo. Cosa devo fare? No, non ci posso credere. Non c'è più tempo. Ma come cazzo? Iron Man, dobbiamo arrivare per le 4 a Radio Forte. Dobbiamo volare. Ok. Guida tu. Propulsione, reggiti forte. Velocità smodata! Via! Cosa? Cori, Iron Man, Cori, dobbiamo attaccare tutto, dai, mannaggia, ma perché stiamo sempre in ritardo, che figura di merda. Vabbè, fammi aprire un attimo il microfono, prova, sa, ok. Bentornati a Radio Forte, state ascoltando 100 Celle Avengers, sigla! Capitano Hulk e Thor richiudono i portali, ripristinando combattendo armi nucleari, riportano la pace, passando tra incantesimi, scettri, mostri disumani. La terra non precipita ma è salva, energia per questo ricomincia, vince, ritorna forte con i valorosi Avengers. Grande eroe di prima, scendi che non vedi perché non sono più quelli che scendi veramente. Un dono nella paura della gente, tanto c'è la legge, la musica si difende. Oggi non ce la faccio più, oggi non voglio più pensare più a per niente. Ho fatto il pieno riso di quello che si poteva, adesso non mi riesce. Ti sento qui presente. Ed eccoci tornati in diretta, questa volta vera Iron Man, ma ti rendi conto? Sì. Ma senti questo senso di presenza, questa verità, questo vivere nel presente? Non stiamo inventando a cazzo il futuro, stiamo... Cioè se tu dici una minchiata adesso io non ci posso fare niente, capisci? Lo senti? Ti posso toccare? Lo senti? Cioè solo io mi vivo sta cosa? Cosa? Scusate, Devices... Cioè, ti devo un po' umanizzare, Iron Man. Ti trovo un po'. Sono emozionato. Sono emozionato. Per dire, sarebbe bellissimo se partissimo pure a bomba con un servizio subito sulla scuola subito. Di musica. Come stanno andando i nostri allievi? Li abbiamo spiati anche questa settimana, amici? Ce l'abbiamo. Siamo andati a captare dei segnali da parte della nostra scuola. Il mondo della Mesopotamia, ci eravamo lasciati con questo non competitivo mondo di popoli che si fanno guerra. Per distruggerli. Notizie ricevute dal mio drone spia di R100. Abbiamo mandato un drone. Hai mandato un drone, Alexa? Non sei andata tu? Cioè, sei montata la testa, cioè gli inviati tuoi? Chi è sto DR100? Chi? Il DR100 MK3 è un registratore portatile che combina affidabilità, robustezza e qualità professionale. Che sta dicendo? Mi sta coglionando? Servizi incompleti. Vabbè, vediamo come smarmelli. Riprodurre servizio. Via col servizio. Sì, se magari parte. Trees on my fallen trees are parade of me. Come me back when it's done. Star and friends and disease are parade of me. Come me back to my mind. Whoa, can it be? The voices calling me. They get lost. Bene, ma ve l'ho detto che siamo anche podcast. Se qualcuno si fosse perso qualcosa, lo può ritrovare in podcast sul sito del Forte. Giusto, Alexa? I podcast di Radio Forte sono su forteprenestino.net. Precisamente, ma non solo, abbiamo anche dei canali per comunicare con i nostri ascoltatori, qui chiusi nella nicchia, nella caverna, nel rimbombo. Lo sentite come rimbomba qua? No. Ecco, come facciamo noi? Ricevuti messaggi dal canale Telegram. Il canale Telegram. Li vogliamo ascoltare? Riproduco messaggi vocali. Ascoltiamo. Dopo aver ascoltato questo trailer, non vedo l'ora di vedere il film The Bamboo. Però immagino che con la chiusura dei cinema sia stata rimandata la sua uscita. Il successo di Io The Bamboo. Io non ho capito, ma perché Suono si è vestito da The Garden Man? Oh, sto cicucco in testa da 3 ore. Vi odio. Qualcuno ha qualche registrazione del saggio 2018? Chiedo per un amico. Ma che eri tu? Ti sei mandata il messaggio da sola? Io non ho fatto proprio niente. Io ho capito che non volete alimentare questa cosa della competizione, ma la puntata scorsa l'hanno vinta i Sumeri a mani basse, no? Dove la carta? aridaie. Hai una voce di merda come quella che farti, come sei brutto un uomo di merda, ma hai rovinato un come figlio sei con le tue sporche, come sei un pornografico, ma non devi avere come pace finché vivi, come sei tu sia mentalmente sei che fisicamente che psicologicamente come hai fatto il con mio figlio. Non ti deve mai rompere. Rientriamo in studio perché mi sembra che la redazione qui non abbia capito che i messaggi vanno filtrati, ragazzi, non si può mandare qualsiasi cosa. Non lo sapevo. Arrivano i vocaloni, vanno selezionati, giammai ci fu la censura, ma non possiamo mandare qualsiasi minaccia di morte che ci siamo guadagnati con sette, dico solo sette puntate. Non è stata colpa mia. Per fortuna il canale Telegram consta anche di messaggi di testo che vado a leggere io. Leggiamoli. Per esempio, BuzzGirl86 chiede, ma sto Aquaman? Maledetto! Sì, non ti agitare Iron Man, lasciamo un chissà, insomma, non possiamo... Non può avere più fan di me! Non possiamo chiudere le strade Iron Man, non mi fa di cose... Lui è morto, non tornerà mai! Matteo detto Stick B propone, maestro, la rifacciamo? No. Sì, forse la rifaremo. Leggiamo ora il messaggio di un ascoltatore che preferisce rimanere anonimo. Volevo chiedere al presentatore cosa ne pensa di Stevie Wonder. No, sarebbe possibile ascoltare non. Un suo pezzo in trasmissione? Penso possa dare degli spunti didattici interessanti. Grazie, veramente grazie a fagiolo, oserei dire, non l'abbiamo mai messo, lo metterei adesso. Riproduco Master Blaster di ora Stevie Wonder. E poi Dulcis in fundo, ho sempre desiderato che un mio pezzo fosse cantato da Iron Man. Avete realizzato un mio sogno. Grazie, Centocelle Avengers. Siete i miei veri eroi. Mike Patton. Oh, e dove è andato Vocione? Vocione? Qua ti hanno chiamato in causa, eh? Anche a me hanno chiesto, ma chi era questo Vocione che cantava nell'altra puntata? Ci serve una cavia. Che stai dicendo? Abbiamo provato tutto, il canale Telegram, il podcast. Manca il musicale, tu sei la cavia musicale. La cavia? Cosa? Sei il manichino da Crash Test. No, io non lo faccio. Continuiamo a testare i potenti mezzi di cui dispone Centocelle Avengers nella sua sede di Centocelle Avengers qui al Forte Prenestino. Vai col soundcheck, Iron. Check, check. Explain it, they always just shall avenge it. Don't worry, be happy, happy, happy. E bravo Vocione, sono arrivati un sacco di tweet, un sacco di mi piace, davvero? Condivisioni sul canale Telegram. Veramente, davvero? No, non è vero, però bravo. Sei cattivo. L'unica cosa, era un po' lento sto pezzo, no? No. Non pensi che per questa prima diretta, con il pepe al culetto che abbiamo, potremmo parlare della velocità? Velocità, siamo di corsa, dobbiamo sprecarci. Sì, ma non è che volevo parlare della prescia, volevo prescia. Fare della didattica, capisci? È il momento della didattica, no, non avevi capito, no, Iron Man? Mettiti seduto, sediamoci. Non capisco. Eh sì, oh, senti, abbiamo detto che dobbiamo collaudare tutto. Sigla. Suona just care for you. Seduti, seduti. Ok, no, ci sediamo, ci sediamo. Tipo, parliamo della velocità. Signore, non allaccia la cintura, ma lo sbatto la cintura. Velocità smodata! Nella sua accezione più demente. Come mi è venuto? Sempre un po' appozzando dalla mia adolescenza. Che c'è da ridere? Manco ho cominciato. Ora ho capito. Tu sì che eri veloce. Risata. Stiamo giovane più veloce del West. Device dementi. Stiamo parlando di velocità in musica. In che senso? Ed effettivamente della tendenza che abbiamo avuto tutti verso l'inizio della nostra vita. Risata. Adolescente. Ancora, allora, a parte che Summer Game non se lo ricorda più nessuno. Ora capisco. E comunque io c'avevo il joystick con l'autofire. Ora, per chi lo sa, l'autofire spara al posto tuo. Quindi non devi premere il pulsante. Tu premi un interruttore e quello comincia a fare fuoco. E tu pensi di battere i tuoi amichetti. E in realtà, essendo l'autofire una cosa, una presa per il culo per i bambini benestanti, venivi costantemente surclassato da quelli che in realtà immagino. Ci mettevano l'anima. Io so tutto. Essere veloci non sempre è una qualità. Se almeno i videogame mi avessero fatto da credito formativo nella musica, cioè se quella manualità lì col joystick se fosse rivelata utile poi a suonare, l'avrei anche citati. Comunque grazie per avermi riportato indietro, così indietro. Io parlavo sempre di musica comunque. La sindrome di Kill Em All. Sai quando di un gruppo ti senti solo il primo disco? No. Perché poi dopo si sono mosciati, però al concerto l'hanno fatto ancora? No. Ecco, ecco, questa forma mentis demente e giovanile ce la portiamo per tutta la puntata. Siete contenti? Nel momento in cui misi le ali ai BPM del mio ascolto e passai dal metal al punk, assaporai questa prima fame di BPM. Quindi con questa lente demente noi adesso andremo a fare una bella disamina. Questi sono gli Sperbirds, Iron Man. Ascoltiamo e poi interrogo. We'll be right back. Stai ascoltando Radio Forte. E questo è 100 celle Avengers. Ed erano gli Sperbirs, Iron Man. Sperbirs. La risposta anni 80 della Germania agli Scream. Scream. Se vogliamo. Vogliamo. Ma considerali un po' come te pare. Il punto è che partiamo dalla batteria. Ovviamente. Batteria. Da dove iniziare se non da questo strumento dispensatore di battiti per minuto? BPM. Il giovane adolescente era solito ascoltare il punk hardcore. Punk hardcore. Mi fa ancora ridere questa cosa del giovane adolescente. Che ci galvanizzava tutti con questo 220-230 BPM. Cassarullo, cassarullo, detto anche per gli amici tuppa tuppa tuppa. Tuppa tuppa tuppa tuppa tuppa tuppa tuppa tuppa tuppa. Cassarullo. Ecco. Che succede? Che io pure sono di una generazione dopo. Questa declinazione del tuppa tuppa tuppa apparteneva un po' più agli anni 80. Ah sì? A quegli anni di cui ho ereditato gli ascolti. Io ero immerso nel nuovo, contraddittorio, patinato punk hardcore. Nuovo punk hardcore. Che aveva fatto una gran paraculata. Quale? Aveva aggiunto un colpo di cassa, una volta sì e una volta no. Quindi quello che prima era tuppa tuppa tuppa tuppa tuppa diventava tuppa truppa tuppa truppa tuppa, un pattern ritmico che in studio poi affettuosamente chiamavamo il tritacarne, e di cui i Good Riddance, che stai sentendo, col loro batterista alieno, costituivano esempio lampante. Tritacarne. Il BPM non è cambiato, lo senti? Lo senti come sembra che vanno a 2000? Ecco, questo è il trick mai più senza. Mai più senza. Tratto distintivo di una decade dopo, il tuppa tuppa. Quindi che cosa fa il batterista adolescente che vuole imparare a fare tuppa tuppa tuppa? Si fa doppio pedale. Perché? Perché comunque è cresciuto con certi miti. Sì. Il metal, la doppia cassa, che se non c'hai i soldi è il doppio pedale. Un esponente a caso, per esempio, con cui erano cresciuti tutti, era Dave Lombardo. Arigaglie. Ma a noi restano più cari questi versi qui. Il metal, la doppia cassa. Le sestine di One. Ecco, ecco, il doppio pedale serviva a fa questo. Mentre per il tritacarne di cui si parlava prima, la tecnica Shaolin era quella del rimbalzo, detta per gli amici affettuosamente tacco punta. Sto secondo colpo, tru tru tru, non era dato dall'altro piede, bensì da un sapiente colpo di cassa di rimbalzo. La nozione base che una volta compresa portava il batterista adolescente a fiondare il doppio pedale. Tanto la verità che ti diranno tutti i batteristi è che il vero bucio de culo se lo fa il braccio, se lo fa il Charlie, se no imbrogli. Oppure se proprio te pesa la degenerazione del BPM. Più di questo non capisco. Ed è proprio là, amici Devices che siete qui ad ascoltarmi, e io mi fermo e rievoco con voi le parole di un altro saggio che incontrai nella chi? Vita. Er Frasca. Frasca. Io ero sempre in quella passione lì per i NoFX, i Leg Wagon, e lui, batterista jazz prestato al punk, nei gloriosi Guastafeste, che un mito per noi, di fronte al nostro entusiasmo per la scena californiana diceva: belli in FX, corrono, corrono, ma date da nanna, ma che c'hanno fretta? Che ecco, significa? Come a dire, il meccanismo si mantiene sempre lo stesso, non è che riguardasse soltanto me e i miei ascolti, c'era chi se la viveva così. E poi però così. O altri che facevano questo passaggio. Corsi e ricorsi storici. Quindi che vuol dire? Che poi diventiamo tutti pompieri? No. Ah no? Ed è qui che te ne cito un altro di questi personaggi che inconsapevolmente hanno detto frasi nella vita che mi ricordo come fossero dei mantra. Anche lui era un batterista e suonava. Fondamentalmente ha scoperto che gli piaceva un sacco l'hip hop. Lui è Chef Ragù. Chef Ragù. Che in tempi non sospetti, nel momento in cui gli andava a criticare questo suo passaggio, ma come, ma noi, i punk, con la solita apertura mentale a spioncino che hanno i giovani, lui mi rispose appunto: non lo decidi una volta per tutte cosa ti fa muovere. Capisci che il vero fomento è boom boom cha, boom boom cha, boom boom cha. Io ancora non capivo. Neanche io. Che il BPM vuole la sua parte, sì, ma sta parte cambia. A volte vai a due piotte, a volte vai a 60. E poi capita proprio che ti innamori di un BPM e lo dici proprio, io voglio questo. È valsa la pena dargli sta mezza piotta metallica per... Come? Hai pagato? Eh sì, oh. Già Dave Lombardo ci ha fatto causa. Io non ce li dico pure con l'Art Zurich. L'Art Zurich, quanto hai pagato? 6 sestine di doppia cassa sono 56 euro più IVA. 99 poste, Radio Forte. Su. 180 BPM. Mi piace assai, mi piace zuppa, ma che profonda assai, mi piace zuppa, zuppa, nonna mi piace assai. Solo quando gioco a pasti notte, c'entra c'è la Ranger Style. Oh, è finito il soundcheck della batteria, chi ci sta? Il basso. Il basso. Strumento controverso, non si trovano mai bassisti. Perché? Uno strumento Iron Man che non si percepisce lì per lì per la sua importanza, per il lavoro che fa dietro le quinte. Ah no? Certo, ci stanno dei casi. Per esempio? Deve spesso... deve trovare un modo per emergere. Come? E come fa? Come fa? Intanto cominciamo... Mazza sta canzoncina, mi fa venire voglia di... Cosa? Non te fa venire voglia di... Non capisco. Non lo so, devi provate gli occhiali, le catenelle. Gli occhiali? Boh, non lo so, è una cosa mia. Vabbè. Dicevo, intanto bisogna distinguere fra i bassisti che usano il plettro e i puritani del Mayflower che usano le dita. Mayflower. Il maestro ti dirà che così come Iacone Pastorius, il basso si suona con le dita. Però io te la butto là. Cosa? Fate come vi pare, ma se mi suonate con le dita vi precludete un domani la possibilità di fare questo. Ecco, questo era Fat Mike, bassista cantante dei NoFX, evidentemente plettromane. Ancora i NoFX, citi sempre lo stesso gruppo. D'altra parte, per il partito del dito, come non citare Les Claypool, dei Primus. Oppure per cercare di mettere d'accordo le due anime, Matt Freeman, dei Rancid. Ma uno che ti vorrei far sentire Iron Man, non tanto per pescare sempre nella gioventù, ma perché è proprio il supereroe dei giovani. È un tuo concorrente e c'ha un basso sotto. Questo è Faso. Hai indovinato, Matusa, sono super giovane. Ma ditele prima le cose, no? Sfreccia in quella scuola, porco dito. Parallelamente al punk, che mi sentivo io pure? Motociclo, motocarrozzetta, sgomma e chioda, va manetta e fa cagare addosso i Matusa e il governo. Go. E poi c'è questo. Cos'è questo file? È una storia... C'abbiamo una commissione, Iron Man. È una cosa seria. Ho pensato che nella sezione basso potevamo trovare una soluzione. Ci hanno commissionato la sigla? Ci hanno commissionato la sigla del GR di Radio Ciurma. Cosa ci hanno commissionato? Del GR. Oh, ma perché proprio io devo dire che non c'ho la R? Ripetilo. La sigla del GR. Del giornale radio. L'uomo senza consonanti. E c'è sto giro di basso da paura. Elaboro subito un beat. Però bisogna che parte a un certo punto. Bisogna aggiungere, no? Facciamo una ricerca. Questo beat bisogna salire. Mi serve... Non lo so, regà, tutti ci devono mettere il contributo. Che cosa facciamo? Noi siamo una scuola di musica, non ci vogliamo suonare una cosa sopra, dobbiamo trovare un'idea. Quale? E troviamo qualcosa che sostiene sti bassi, sta accompagnamento dopo, che parte, che... Forse ho trovato qualcosa. Bello questo, brava, e chi so? Wolfpack. Mai sentiti? Questo è solo Joe Dart. Senza plettro. Joe Dart. Senza plettro. We'll be right back. chitarristi di tutto il mondo, pentitevi, deprimetevi, perché siamo giunti a voi. Ma come dai? Ma come dai? La parte più bella, abbiamo 25 minuti di assolo su cui speculare, Iron Man, non mi fare così. Uccidimi. Mi metto sulla mia sedia a dondolo e si ricomincio a dire di quando io... Ancora. No. Io proprio, cioè, sulla chitarra, il concetto di assolo che si accompagna alla velocità, io l'ho proprio glissato, cioè, assolo. Se ho preso una certa strada chitarristica, era per, proprio per lasciare ad altri l'arduo compito di esprimersi. Quale? Ancora questa roba? In questa maniera così sprocedata, come sanno fare solo i chitarristi. Ma andiamo con ordine. A questo punto è importante che ti parli della relatività. Ora basta. Ah, vabbè, però se devo fare così sempre... Tutto questo mi fa pensare alla relatività. La relatività. Perché per me una frase complicata, una frase inarrivabile, era questa. Mark Knopfler. Cosa? Ma sono i Dire Straits. Oppure, proprio a dire quello che mi portavo più in alto di tutti, Brian May. Ancora qui. Ecco, se tu pensi agli shredderoni che ci stanno oggi, Joe. Mi si intrecciano i circuiti. Capisci che è tutto relativo? È come quando rientri in una vecchia casa e dici questa casa mi sembra piccola. Cosa stai dicendo? È tutto relativo. Dici. E non c'è limite alla coattanza di questi pavoni che sono i chitarristi. Pavoni. Vanno sottolineate anche qua un po' di tecnicismi, no? Non trovate? Velocità è velocità, vabbè. Poi come ti dicono quando cominci con la chitarra? Comincia con la classica. Classica. Quindi sul Mayflower di chitarristi c'erano quelli con la chitarra classica. Poi scesi dal Mayflower si sono accorti, grazie anche alle idee di alcuni precursori, Jimi Hendrix, drogati, che effettivamente la chitarra elettrica distorta guadagna un certo sustain. Che cos'è il sustain, Iron Man? Sustain? Cos'è il sustain? È quel qualcosa che ti sostiene la nota quando l'hai appena sfiorata. Cosa genera questo? Cosa genera? La possibilità di suonare una nota anche solo con la pressione dei polpastrelli sulle corde. Il tapping. Pure lì, quindi, il trick della vita per andare a velocità smodata. Velocità smodata. Col vecchio Kirk. Ancora in metallica. Ma ascoltami due gruppi da giovane. Ormai l'ho pagata sta mezza piotta, dai. Quindi un conto è pizzicare. Dimmi tu. Un conto è shreddonare. Steve Vai. Un conto è Steve Vai. Vai, vai. Mi ho detto abbastanza male dei chitarristi? Un po'. Non volevo. Ai nuovi nemici. È che a volte c'avevo l'impressione che il solista si perdesse in un bicchiere d'acqua. Con la sua voglia di scale perdesse un po' aderenza con la canzone, quindi non eri più capace di... Poi non ti lamentare se ti minacciano. Comunicargli delle cose semplici, delle ritmiche, delle... Quattro quarti. Sai, comunque la canzone non è solo il tuo assolo. Ma il bello è che non sono tutti così pavoni, o almeno... Ma un po' oltre questo pavoneggiarsi, questa competizione, noi abbiamo detto che la competizione non la fomentiamo, e i chitarristi non è che sono tutti così. Ti porto un esempio di fratellanza, concordia e giusta spartizione. Sono gli Iron, la risposta tedesca agli Iron Maiden. Mi pare abbastanza evidente dalla voce, ma quello che ti voglio far sentire, grazie alla stereofonia che questa radio ci consente, è che si sono messi una a destra e una a sinistra. 8 battute da solo. Adesso li ascoltiamo tutti e 13 questi minuti di pezzo? Solo 13 minuti. E allora perirai di note. Ascoltando Radio Forte, questo è Centocelle Avengers. Mi si sono intrecciati i circuiti. E dopo questa ubriacatura di note, caro Iron Man, che facciamo? C'è bisogno di una discesona di BPM, sei d'accordo? Mi gira la testa. E come suggerisce il vecchio Mike, detto Michele l'intenditore? Che fai? Michele l'intenditore? Una salitona finale di tasso alcolico. Tiè. Bevi alla fine di questa prima puntata in diretta. Ma io non bevo. L'unica cosa è che dovresti cantare. Cosa? Dimenticavo. Ancora? E dai. Ma non è in scaletta, non me lo avevi detto. Provaci ancora, Iron Patton. Dai, oggi. Non capisco. Non me va, non me la sento, dai, non la so. No, non ti faccio una calzetta. Ma che da fare? Memorizzo testo. Just walk away. and just walk away. Hai ricevuto un messaggio vocale. Generale Iron Patton, un dispaccio per noi. Ritraduci messaggio. Chi è? Messaggio da Maurello. Radio giornale ciurma pirata. Sembra Maurello. Ciurma pirata. Oh, questo è buono per la sigla. Monta un po'. Sincronizzo traccia. Ciurma, ciurma, ciurma. Radio giornale ciurma pirata. Radio giornale ciurma pirata. Prima, forse dovremmo salutare. Siamo ancora in diretta. Caro, prima di lasciarci, ti devo fare una confessione. Non siamo proprio in diretta. Cosa? Ci serviva un'esercitazione di allenamento, allora mi serviva che... Cosa stai dicendo? Che tu, che voi foste sul pezzo... Non capisco. Non siamo in diretta, Iron Man. Che cosa? È registrato. Non è possibile. Dai, non ti arrabbiare. Una finta diretta e io che ho cantato per te mi hai ingannato. Sveglia! Mica sta da casa mia qua! Dai, ci serviva! Non era per tutti, non reggiamo basta ancora! Ora basta! Dai, calmati, vieni, dai! Qua. Non Viva. Scappare! Vieni! C'era steso un uomo biondo, salutava e non lo vidi mai più. Poi nel cielo un'esplosione di un motore a compressione, dedicai l'intera vita per raggiungere l'uscita. Io sono un missile, sfiorato più di mille volte l'atmosfera ed ora sono inutile. Io sono inutile, ho sfiorato più di mille volte l'atmosfera ed ora sono un missile irraggiungibile. Sulla pista d'atterraggio mi saluta un uomo, il mio papà. Dove sta la cosa? Sto partendo per lo spazio, riuscirò a capire meglio il senso quando non sarò più qua. L'atmosfera ed ora sono inutile, irraggiungibile. The Bamboo. Amore mio, dove sei? Fuggito, shock. La casa è stata costruita su un antico cimitero inca. Dobbiamo fuggire. Dobbiamo trovare un posto dove nasconderci. Ci sto pensando. Come possono toglierla loro? Sono ben sbronate in corridoio con detecta, presto. Ascoltami. Troverà. Prendi la bambina e scappa. Mamma, papà. Che cos'è? The Bamboo. Dal 18 ottobre su Radio Forte. Stai ascoltando Radio Forte. Questo è Centocelle Avengers.